Scherzi, buonasera, ben arrivato a Radio Rock Cinematografo. Buonasera. Come va? Tutto bene, tutto bene. Allora, bene, parliamo subito di Cowboys and Aliens. Vai. Allora, Cowboys and Aliens è un film con Daniel Craig, che è il, diciamo, il nuovo James Bond, e Harrison non Ford. Non si sa ancora se lo sarà ancora. No, diciamo è l'ultimo James Bond. Ha fatto l'ultimo James Bond. E Harrison Ford. Rientra in quella categoria di film tipo Snakes on a Plane, cioè che puntano tutto sul titolo, e il titolo deve essere una gran figata. Questo qui, Cowboys and Aliens, dovrebbe perché è ancora tutto da vedere, dovrebbe dare quel che promette, cioè un crossover tanto improbabile quanto avventuriero, e unisce due cose che si somigliano più di quanto non si creda. Cioè spazio e west sono due cose che negli ultimi anni sono prettamente americane, benché la fantascienza non è che sia americana, però gli americani l'hanno gestita per la maggior parte. È russa la fantascienza. Esatto. Sbaglio? No, correttissimo. Io sono ignorante. Anche al cinema, il primo film di fantascienza, no, prima è quello di Méliès, ma poi ci sono quelli russi, sono molto quelli muti. Però spazio e west si somigliano moltissimo, perché sono entrambi due ambientazioni dove per antonomasia il soggetto, il personaggio è a contatto con la vastità. Cioè il west ha senso perché è vasto, è la frontiera, territori, certo. Il cielo, le grandi cavalcate. Allo stesso modo lo spazio ha senso perché è vasto ed è un luogo dove può accadere di tutto. Cioè un luogo talmente estremo, talmente strano, dove l'uomo è a contatto alla fine con se stesso, proprio perché è in mezzo alla vastità. Quindi tutto questo non credo che ci sarà in Cowboy and Aliens, che dove sarà una cosa molto più tosta, anche perché è dal regista di Iron Man, che ci piace il regista di Iron Man. Quindi dovrebbe essere una cosa, insomma... Bella spinta, bello azione. Mille effetti speciali, mille cose. Esatto, dovrebbe essere una cosa soddisfacente, diciamo. Però tutto con da vedere. La produzione di Steven Spielberg. Esatto, io non riesco più a parlare, ma com'è? Che per il tuo lavoro è marginale. Sì, è una cosa marginale. Mi si allappa. Si allampa tutto. Sì, insomma, comunque lascia ben sperare, ma vedremo. Va bene, grazie. Prendo l'acqua. Invece no, devo lanciare un appello agli ascoltatori di Radio Rock. Appello al quale possono rispondere o via SMS ora al 3899 106 e 600. Bene. Oppure via Facebook sulla pagina di Celluloide e Celluloide, come preferiscono. Possono farsi sentire come vogliono, gli pare. Allora, adesso esce Jackass 3D. Se non conoscete Jackass è troppo difficile spiegarvelo. Tu lo conosci? No. Jackass è quella cosa che fanno su MTV in cui alcune persone si fanno un male incredibile in maniera demenziale. Se non l'hai mai visto, è difficile spiegarne il fascino. No. Però probabilmente molti l'hanno visto, molti lo conoscono. È una cosa che va su MTV, ma sono stati fatti alcuni film. Ora sta per uscire Jackass in 3D. Io l'ho visto, se siete amanti di Jackass, è straordinario, fantastico, è esattamente quello che vi aspettate. Ma è una finzione o si fanno male per davvero? No, ma è per davvero. Ed è una cosa totalmente senza senso. Per esempio, in Jackass 3D ci sta, a un certo punto sono vestiti tutti in mutande, quindi a torso nudo, con delle orecchie pelose, e fanno quel gioco tipico americano del palo con la corda e la palla, che tu gli dai gli schiaffi e a turno come se giocassero a pallavolo con una palla a corda, solamente che lo fanno con un alveare di api. Quindi con 5-6 mila api, e si fanno male in quella maniera. Oppure c'è un altro momento in cui si fanno sparare con una mega fionda dentro una piscina, però solitamente poi la mancano. ce n'è un altro in cui, fammi pensare, uno particolarmente doloroso. Sì, bellissimo. Da una fontana particolarmente grande, quindi piena d'acqua, partono con una moto d'acqua per poi schizzare fuori dalle recensioni della villa e distruggersi assieme alla moto d'acqua. Insomma, ce ne sono tantissimi e sono talmente demenziali da essere esilaranti. Ma il punto è, io incontrerò, perché verranno a Roma, incontrerò uno di loro, il più famoso di loro, Johnny Knoxville, che è il più noto di questi artisti del dolore demenziale. E siccome... guarda, li sto vedendo qua su YouTube, sono dei pazzi. Straordinari. Siccome l'incontro uno di loro, e non è che, devo dire, non è che ho molte domande da fargli, non è che... pensavo, facciamo un Jackass. Cioè, chiaramente non potrò chiedere a lui di farlo, cioè lui è uno che viene pagato per farsi male, non è che potrà farlo con me. Però può farlo lui a me. Ma il punto è, che facciamo? Allora, considerando che non... Cioè, tu ti fai far male? Esatto, però da lui... Allora, considerando che non mi farò fare danni permanenti. Tenetelo, cioè, non, è, non ditemi quelle cose del tipo ti stacca un dente. Fatti no. tagliare, sfregiare. Sì, danni permanenti? No. No. Neanche cose in grande stile, cioè non posso farmi lanciare da una fionda gigante, non ce l'ho e non lo possiamo fare. Sì. Non possiamo fare neanche una cosa tipica loro che si fanno far male dagli animali, tipo caricare da una mandria di bufali. Lo stavo vedendo, stavo esatto. vedendo. Neanche quello potrò fare perché non ho i bufali, non lo posso uno fare. Uno si è tirato, cioè col salto con l'asta, stavo vedendo. Ha saltato con l'asta e è caduto sopra un tavolo pieno di bicchieri. Straordinario. Per cui tutte queste cose qui in grande stile non le posso fare. Immaginatevi una cosa da Jackass che io possa fare in un ambiente chiuso, in una stanza, senza distruggere tutto, chiaramente. Una cosa che sia sufficientemente demenziale. Io pure ci sto pensando, me la sto studiando, ma guarda, devo... io ce l'ho, se vuoi te lo faccio io gratis. Vai. Ti do, porto una mazza e ti do una botta in testa. Ma non è dimensionale, non fa ridere, non è nello spirito Jackass. Ah, ho capito, come questo che ha sciato da con gli sci a casa. E vedi, questa è l'idea geniale di Jackass. Ma si fanno male veramente? Sì. No, ma nel film poi ce ne sono alcuni di una creatività e di un esilarante raro. Sono la naturale evoluzione di due cose. Da una parte l'umorismo slapstick tipo la torta in faccia, cioè, solo asciugato di qualsiasi senso, rimane solo il dolore, vero? Si fanno e dall'altro sono un modo fantastico di un po' prendere in giro, un po' esasperare una moda che c'era, perché loro nascono negli anni 90, una moda che c'era tanto negli anni 90, quella dei filmati... Quella dei filmati domestici in cui ci si fa male, che da noi l'ha portato Paperissima, ma in America esiste molto. Ecco, loro a quei filmati domestici di incidenti sostituiscono una cosa volontaria e volutamente cretina. Pazzesco, degli studi. Pazzesco, sì, pazzesco. Ah. E insomma, tra poco uscirà in 3D e niente, quindi suggeritemi. Adesso si fa levare un dente? Ah, no, con la Lamborghini? No, si è fatto bucare con un amo da pesca sulla guancia. Beh no, ce n'è uno in Jackass 3D, c'è uno che si lega il dente allo spago, come quando fai con i denti che stanno per cadere, e l'altra estremità dello spago lo lega a una Lamborghini. Però il dente è buono, di quelli frontali. E se lo fa staccare? Certo, la Lamborghini parte. E il cavo è lungo, e che vuol dire che si tende quando la Lamborghini è a 300? Madonna! E non si stacca la testa, che rischia che si... No, il dente si stacca prima il dente, ovviamente. No, però se non si stacca li porta via tutta la testa, mica... Ne sto vedendo qui su YouTube, ci sono migliaia e sono completamente straordinari. Pensa tu, io ero all'oscuro di questa cosa. Dell'esistenza di Jackass. Esatto. E lui, Johnny Knoxville, è il più schizzato di tutti. Ce n'è un altro geniale che si è fatto lui sulla schiena ha un tatuaggio di se stesso che fa ok col pollice. Ma se l'è fatto fare dal tatuatore mentre stavano su un dune buggy sulle dune. Per cui è venuto malissimo. Uno schifo è venuto. Ha uno sgorbio sulla schiena gigante, però. Vabbè. Pensa, ero completamente all'oscuro di questa cosa, vedi? Divertente, adesso inonderò la mia pagina di Facebook con queste cose. Ma guarda, quando esce questo film non dovrò andarci, ma se andate su YouTube e digitate Jackass, appunto, e ce ne sono... Però diciamo che loro si tengono le più divertenti per i film, chiaramente, perché se no si rovinerebbe il mercato. Ma questo che si è fatto dare una botta con una palla gigante di ferro... Sono anche l'evoluzione di quello di Mahdire Banzai, Takeshi's Castle. Come no? Quelli come che si no. facevano male, solo che loro lo fanno volontariamente, questa è la cosa incredibile. Vediamo questo, aspetta. Cioè, si sono fatti sparare con un cannone dei sassi. In faccia. Ah, nel film c'è un pezzo in cui si mettono nella traiettoria del jet. Il jet parcheggiato, però c'ha il razzo dietro che fa aria. Loro si mettono un po' lontani, quindi hanno questo vento fortissimo che gli va contro e già fa male. E poi uno da sotto il jet mette nel jet, fatti conto, un pallone da rugby, che a quel punto gli schizza in faccia. Esilarante. Vabbè, sono dei pazzi scatenati. E questo ci fa piacere sapere che nel mondo ci sono anche dei pazzi, perché non lo sapevamo. Sono tutte persone. Li dovrò incontrare e vorrei che con loro aiuto, che sono esperti della materia, fare qualcosa alla mia portata. Io non sono un professionista, no? Certo. Cioè, come io non sono un calciatore, ma gioco a calcetto. Ma ti fai riprendere? Certo, se no. Lo mettiamo subito su YouTube. Per forza. Se riesco a fare, però devo trovare una cosa fattibile, capito? Certo. Cioè, non potrò fare una cosa troppo estrema. L'ufficio stampa non me lo farà fare. Insomma, deve essere una cosa. Io pensavo, una delle mie idee era che io gli leggo, anzi no, così mi attacco col super attack alla barba, ai peli della barba, delle cordicelle che loro tengono in mano, e gli leggo una recensione molto negativa sul loro film, e quando non sono d'accordo tirano forte. Guarda che fa male. Vabbè, però se, se sono entrato in questa mentalità. Io posso fare un'altra cosa, faccio la stessa cosa con i capelli. Tirate, tirate! Che se ne frega! Vabbè, beh, insomma, parliamo di Lanterna Verde, prego. Ma parliamo di Lanterna Verde. Lanterna Verde, innanzitutto, è previsto per il giugno 2011, quindi hai voglia. Però è un film. No, perché oggi è uscito il primo trailer. Esatto. È un film, categoria di film, film di supereroi Marvel. Film di supereroi, non Marvel. 3D, scusate. Ma dicono che sia un filmone di quelli. Anche perché chi c'è a dirigere. L'ha detto Livio il Cuoco, che non è chi l'ultimo. C'è a dirigere? A dirigere c'è il grandissimo Martin Campbell. Martin Campbell è quello che ha riportato in auge la saga di James Bond, prima con GoldenEye e poi con Casino Royale. Ha fatto anche la maschera di Zorro ed è uno dei registi d'azione più abili, più bravi, più interessanti che ci siano. A fare il ruolo da protagonista sarà il grandissimo Ryan Reynolds, che è quello che avete visto, se l'avete visto, in Buried, il protagonista di Buried, quello che veniva seppellito vivo, quel film girato tutto in una bara in cui il protagonista veniva seppellito vivo. E chi altro? Mi sembra di noti Mark Strong, se lo conoscete, farà il mentore di Lanterna Verde. Come diciamo, è previsto per il 2011 e sarà una bella uscitona. Dovrebbe essere già il budget di 150 milioni di euro, per cui insomma dovrebbe essere una cosa su cui si investe parecchio. Vabbè, ma parliamo di quello che hai visto al cinema, allora, le anteprime che hai visto per noi. Esatto, devo dire subito una cosa scandalosa, vergognosa. C'è un film bellissimo, uno dei film, sì, bellissimo, che si chiama Scott Pilgrim vs. The World. È un film, diciamo, ovviamente come tutti i film, buono per tutti, ma particolarmente indirizzato a quelli della mia età. Voi direte sì, ma quanti anni quanti c'hai anni tu? Hai, diciamo intorno ai 30. Questo è un raggio ampio che va intorno ai 30. È un po' vecchio. Beh, esatto, molto vecchio. Perché è stato fatto da una persona. È tratto da un fumetto scritto da una persona, disegnato da una persona che più o meno ha questa età e parla molto delle cose di questa generazione. Di che parla? Scott Pilgrim è un film molto divertente, molto comico, diretto da Edgar Wright, che era il regista di L'alba dei morti di Dementi e Hot Fuzz, su un ragazzo che suona in una band di indie rock e che si mette con una ragazza bellissima di cui è innamorato, ma che una volta che si è messo insieme scopre che per stare con lei deve sconfiggere i suoi 7 ex malvagi, cioè i suoi 7 ex ragazzi malvagi. È tutto girato con in mente i videogiochi, cioè lui è un appassionato di videogiochi e quindi vive la sua vita come i videogiochi. È molto divertente, questo è un espediente molto esilarante. Vedrete che è anche girato come fosse un fumetto, insomma è un film particolarissimo e molto commerciale, insomma un film non de sé, stiamo parlando di una cosa easy listening, esatto, però di grande qualità veramente. Edgar Wright è secondo me uno dei registi più promettenti della nuova generazione, cioè è al terzo film. Se non avete visto L'alba dei morti dementi, nonostante l'orrendo titolo italiano, è un film divertentissimo, rimediatelo. E purtroppo lo scandalo è che questo film bellissimo, siccome non è andato bene in patria, è andato sotto le aspettative, e siccome si ritiene che il mercato italiano non sia adatto a questo tipo di film, su Corso del Discorso esce in pochissime sale e comunque nella maggior parte di queste sale è solamente al primo spettacolo. Per esempio a Roma è in 9 sale e in 8 di queste 9 sale lo potete vedere solo tipo alle 15, alle 16, non ci sono altri spettacoli. L'unica che fa tutti gli spettacoli, quindi completa, è la sala Troisi, che è quella che sta dove sta? Aspetta, forse non è quella che dico io, la sala Troisi sta, mi confondo. Svita con la bocca qualche lampadina di incandescenza. Sai che non è male questa. Prova è su via Induno a Trastevere la sala Troisi. Però è l'unica che lo fa. Mica non parlavo. Lo so, ma devo finire il discorso, vai. Lo so, ma qui stiamo parlando di cose serie, scusa. Prova ad uscire da una vasca piena di vasellina. Guarda, tutte queste qui sono ottime idee, però si perde un attimo lo spirito, cioè io devo interagire con loro, capito? Che figata è se io ho loro e lo faccio da solo, cioè lo posso fare pure a casa. Cioè a casa già lo faccio, ma insomma per diretto personale, ecco. Sei un matto. E insomma Scott Pilgrim dovrete faticare a vederlo, però è un'esperienza che vi ricompenserà. È un film veramente che ha, diciamo, più di un perché ed è anche particolarmente ben riuscito, particolarmente empatico, emotivo, insomma. Beh, se vi piacciono queste cose, tagliamo corto, ti è piaciuto, abbiamo capito, è piaciuto, ma non, parliamo di Dylan Dog. Dylan Dog, allora devo confessare che non sono riuscito a vedere i 20 minuti di anteprima. Stavano al Festival di Roma, ma siccome io lavoro anche lì, c'avevo da ora e non sono riuscito a vederli. Quindi devo confessare questa mancanza. Vabbè, ma parliamo del film della stagione. The Social Network. No, ma che? Harry Potter. Ah, hai ragione. Harry Potter. Hai pienamente ragione. Allora, questa settimana esce Harry Potter. Harry Potter 7. Allora, vi risparmierò le solite cose che dicono i servizi sui telegiornali del tipo i maghetti sono cresciuti, è un film più dark del solito. Andiamo. Anche perché se così non fosse sarebbero dei nani o dei veri maghi. Esatto. Andiamo al succo della questione. Harry Potter, questo qui si chiama Harry Potter e i doni. Dimmi. Ti interrompo. Sì. Abbiamo la soluzione. Vai. Fatti dare un calcio nei testicoli e nello spirito Jackass. È un classico. Come la torta in faccia. Sai che c'ha ragione, c'ha proprio ragione. È quello. Però questo mi spaventa. Fidanzata questa mi spaventa. Non si sa come la potrebbe prendere. Però si rischia il danno permanente, se l'ha detto, non danni permanenti. Non, è il destino. Questo è il destino. Ci penso, diciamo che ci penso a questa cosa. Beh, il calcio ai testicoli potrebbe essere. È tra le cose che vaglierò, mettiamola così. Diciamo che è quella giusta. Sì, è corretta e non posso dire che non sia corretta. Votiamola. Però magari ne trovo una migliore. Mettiamola ai voti. Conosco gli ascoltatori di questa radio, non votiamo. Guarda, mettiamola ai voti. Mettiamola ai voti. No, non farò votare gli ascoltatori di questa radio. Sei poco democratico. Esatto, sono poco democratico. Bene, parliamo di Harry Potter. Harry Potter. Allora, questo Harry Potter si chiama Harry Potter e i doni della morte, parte 1. Perché parte 1? Perché a differenza di tutti gli altri film di Harry Potter, questo qui non è tratto da un libro, è tratto da metà libro, perché i libri sono finiti, cioè erano 7 e quindi sono finiti, è chiuso, e per spremere fino all'ultimo la macchina da soldi hanno detto: ma dall'ultimo libro non facciamoci un film, facciamocene 2 di film. Così doppio degli incassi a fronte di un budget quasi uguale, perché poi li girano insieme, quindi non è il doppio del costo di realizzarli. Grande idea, ovviamente. Però che succede? Succede che mentre gli altri Harry Potter soffrivano di una certa farraginosità, cioè dovevano comprimere tutto quanto e esageravano col ritmo, qui accade il contrario. È un film, per me, che non sono un potteriano, che soprattutto non ho letto i libri, quindi non ho quel tipo di fanatismo, semplicemente lo vedo come si vede un film, per me è un film lentissimo, è un film molto anche noioso, secondo me. Si racconta della fuga di Harry Potter da Hogwarts, perché ormai le forze del male hanno conquistato sia il Ministero della Magia che Hogwarts. Anche la scuola? L'hanno presa totalmente. Poi c'è. Ma si vede quando la prendono o inizia che è già presa? C'è un altro problema di Harry Potter, è un problema mio sempre perché non sono un lettore dei libri di Harry Potter. Ogni volta che io mi accingo a vederlo, e lo vedo una volta ogni anno, perché poi sono più o meno così, diciamo ogni anno e mezzo, ho sempre l'impressione che ce ne sia stato in mezzo uno che non ho visto. Perché ho sempre l'impressione, non fanno un riassuntino prima, io non mi ricordo esattamente che era successo. C'è da dire che anche l'ultimo era lento forte. Esatto. Era proprio lento. Poi attaccano lento, con lento. Tutti quei nomi di luoghi e di persone che io non ricordo benissimo. Rivedili. Lo so, prima però, di andare al cinema devi così. Documentare. Ma sai perché non lo faccio? Perché voglio immedesimarmi con lo spettatore medio. Lo spettatore medio non li rivede prima di andare al cinema. Vabbè. E io devo sapergli dire: spettatore medio, calcio alle eterga va alla grande, è super votato, ero sicuro. Super votato, ero sicuro che finiva così. E niente, quindi questo Harry Potter è un pochino più lento degli altri, anzi un bel po' più lento. L'ultima era proprio lento. No, questo qua è ancora più lento. Questo ancora. Sembra Antonioni per ragazzi, sembra, perché ci sono dei momenti, siccome sono in fuga, ci sono questi momenti in cui in 1000 scenari diversi stanno lì e guardano l'orizzonte, in questi scenari naturali anche bellissimi, ma insomma in silenzio. E è francamente imbarazzante perché poi anche alla proiezione stampa c'erano dei bambini, perché in queste proiezioni per film per ragazzi spesso i critici sono a proposito del concesso Harry Potter, di portare i figli. Scusami se ti interrompo, questa sera il concerto di Gary Potter, di Gary Potter Quartet, per chi ama il genere di cui tanto abbiamo parlato, è stato spostato in febbraio. Gary Potter qual è? Manouche, vero? Manouche. E dicevo, siccome anche alla proiezione per la stampa c'erano dei bambini, perché spesso a questi tipi di film i critici possono portare figli, ci sono questi lunghi silenzi in cui si sentono le urla dei bambini, insomma, sono cose abbastanza imbarazzanti. Perché tutto questo? Un motivo c'è, Il primo è che appunto fanno solo mezzo libro, quindi devi dilatare per riempire, per forza. Il secondo è che ancora una volta, e questo accade dal quinto episodio, dal quinto film, cioè da Harry Potter e l'Ordine della Fenice, a dirigere c'è David Yates. La saga di Harry Potter è caratterizzata dal fatto che ogni film lo dirigeva un regista diverso. I primi due era Chris Columbus, che è un grandissimo dei film per ragazzi, quello che di sono Batman i più Perso belli, secondo me. Esatto, uno dei più belli. Il terzo pure, che non era niente male, che Il prigioniero di Azkaban, è di Cuarón, è quello dei viaggi nel tempo, il terzo, che non era niente male anche quello. Il quarto è uno dei miei preferiti ed è di Mike Newell, ed è quello, il calice di fuoco, quello con le Olimpiadi. Ci sono le Olimpiadi tra scuole. Ah sì, quello che è bello. Che non è niente male. Dal quinto in poi, L'Ordine della Fenice, hanno preso una piaga terribile perché, secondo me, a mio parere, David Yates assolutamente non è in grado. Però è un regista che è economico, è un regista che va bene alla troupe, è un regista che piace alla produzione perché lavora bene. Magari poi il prodotto non è particolarmente buono, ma sappiamo anche che ormai è arrivato al quinto episodio e Harry Potter incassa, ormai è andata. Cioè, lo posso dirigere anche io, Harry Potter, ormai chi lo deve andare a vedere lo va a vedere, specie quando siamo a un passo dalla fine. Cioè, di certo non mi perderò l'ultimo film dopo che ne ho visti sei. Certo. Per cui niente, c'è questa grandissima dilatazione, perché da... Ma si diceva che lui nell'ultimo film, cioè al settimo, morirà. Io non ho letto i libri, quindi non so assolutamente niente e mi voglio tenere la sorpresa. Questo qui è proprio preparatorio. So che nel prossimo film ci sarà uno sfacelo dei combattimenti in battaglia, se le daranno de santa ragione, perché è stato lasciato tutto per l'ultimo film. Qui c'è proprio la decompressione, il momento in cui si caricano prima di sventrarsi di mazzate. Vabbè, quindi da vedere. Ma non so che dirti, io vi direi anche di no, però capisco se poi andate a vedere, cioè una certa, è il sesto, che vi posso dire. Diciamo che potete aspettare Sky magari, ecco, o se non Sky potete aspettare la televisione, non lo so, insomma, su un altro schermo vederlo, ecco. Geniale questa è geniale, fatti freddare un orecchio e poi te lo fai colpire con dei forti buffetti, questo ha del geniale. Bello, però non fa male. Beh, l'orecchio gelato che ti danno fa male abbastanza, però non è demenziale. Insomma, no, però votano tutti. Ma poi manca la parte demenziale soprattutto, cioè non è poi divertente. Cioè non vorrei fare brutta figura davanti a loro, ecco, mettiamola così. Allora, ti fai obbligare a vedere stile Arancia Meccanica, a vedere ad occhi spalancati il peggior film che tu abbia mai recensito. No, potrebbe portarmi dei danni irreparabili, danni cerebrali irreparabili. Non posso credere che continuino a votare il calcio. Sì, migliaia, sono migliaia. Mai ricevuti tanti sms da questa radio. Ah, mi dicono che Dylan Dog non c'entra nulla con il fumetto, è un'americanata insulsa, non ci sono personaggi storici, compreso Groucho. Ma veramente non c'è Groucho? Purtroppo io non ho visto i 20 minuti, quindi non posso dire. È una cosa su cui non sono preparato. Vabbè, niente, neanche questo a vedere. Oh, c'è un'altra saga che arriva a conclusione. Sagra. C'è un'altra sagra che questa settimana arriva a conclusione. Una sagra amatissima, non da me, ma so che è molto amata, benché a me non mi piaccia. Ed è quella di Solo Enigmista. Esce l'ultimo film della saga di Solo Enigmista ed esce in 3D. Si chiama Saw 3D e credo il settimo o l'ottavo, non ho perso un po' il conto, non mi ricordo. Non l'ho potuto vedere perché non l'hanno fatto vedere alla stampa. E non è che posso. Paga il biglietto e vai. Lo so, però esce oggi. Potevi andare oggi alle 3. ero impegnato a pensare a cosa fare con quelli di Jackass. E niente, quindi ve lo dico, ve lo comunico. So 3D, anche tanto comunque, anche So è una saga che uno va a vedere comunque. Se sei un matto malato di So, te la andrai a vedere, perché di certo non perderai l'ultimo episodio, l'unico in 3D, di certo non te lo perderai. Vabbè, altri film? Per gli amanti del cinema d'autore, esiste anche questa nicchia, giusto, che io rispetto e stimo, esce un film stupendo per gli amanti di quel tipo di cinema. Si chiama Illegal, è un film del belga Olivier Massé de Passe, è il suo secondo film, il primo, stupendo, Cage, non era uscito in Italia. Aspetta, io l'ho visto... ti fermo perché abbiamo un brevissimo break. Scusa, ma stavamo parlando di quello che ha grandi iniziative il 4 di dicembre qui a Radio Rock, sabato sera dalle 21 alle 24. Ma c'è una ricorrenza, perché il 4? No, perché il sabato c'è il signor Mario, che salutiamo, prendi il microfono, vai. È stato o l'effetto tuo o è caduto durante la notte, ci ha avuto una grande idea, un'illuminazione. Secondo me è la mia vicinanza. Il 4 di dicembre, sabato 4 dicembre 21-24, qui a Red Rock succederà l'apoteosi. Stanotte mi è venuto così, pom! Ma voi lo riprenderete? Visto qualsiasi cosa accadrà, lo riprenderete? Perché sennò, se non viene ripreso, ha poco senso. Aspetta, Claudio! Al telefono proprio, così. Non credo che accada a Radio 105 questo. A Radio 2, credo. Era Claudio. C'hai mo da fa stasera. Cioè, lo riprenderete questo evento? Che se non lo riprendete, no, è inutile. Sì, sì, lo riprendiamo, riprendiamo. Certo. Dobbiamo risolvere un po' di problemi tecnici, però li risolveremo. Però è un'iniziativa molto bella. Che si farà? Cioè, tu e io ho capito cosa farete, ma poi quale sarà le cose fatte? Io ho capito chi verrà, ma poi che in pratica che musica ci sarà? Mettiamola così. Non si può dire. Vabbè. Okay. Questo lo decide Mario. Ah, giusto, corretto, lui è corretto. È responsabile della trasmissione. Radio Rock. I classici del rock. I grandissimi classici giusto, del rock. Giusto. Allora, tipo i pezzi dei Beatles, le Zeppelin, i Dream Theater, cose estreme. No, classici. Qui volevo arrivare. I classici antichi. Rolling e anche Padre Anson. Sì. Anche un Battisti, capito? È chiaro. Ho capito perfettamente. Non dire niente. Mario, zitto. Chiaro. Oddio, che mi è venuto in mezzo. Oddio. Lo manderemo in diretta con le webcam, tra l'altro. Perfetto. Ma filma anche le selezioni, che le selezioni saranno bellissime. Va bene. Allora, che siamo? Televisione. Già finito? Il Legale l'abbiamo detto. Il Legale è un film, dicevo, il film intellettuale, autoriale della settimana. È molto bello, è belga e racconta una storia di immigrazione, ma non è il solito film di immigrazione che noia. È un film veramente, veramente empatico e sentimentale. Vedrete questo, scoprite un regista abilissimo a riprendere i sentimenti e cercherete anche voi poi di recuperare Cage, che è quell'altro suo film che a me piacque da impazzire al Festival di Roma di parecchi anni fa. Bene. Televisione, anche perché siamo agli sgoccioli o sbaglio? No, oggi possiamo, stasera non c'è discoteca, quindi siamo qui a... Ah, io mi ero affrettato! No, qui siamo qui a Vanvera proprio. E allora hai voglia! Chiedevano, c'erano gli ascoltatori che chiedevano se fanno il film di Butto a Roma. No, ancora non è uscito, è passato al Festival di Roma, ma poi in sala non è ancora uscito, quindi no. Ma allora potremmo chiedere una cosa, potremmo chiedere agli ascoltatori quanti degli ascoltatori che hanno visto la saga di Harry Potter si sono talmente rotti che non ci andranno. Cioè, io l'ho visti tutti, ma ho rinunciato, adesso basta. Secondo me non ci sono. The Tourist l'hai veduto? No, ma ho visto quello sotto e nonostante sembra una mezza cretinata, è un film bellissimo, cioè Megamind, il nuovo cartone della DreamWorks, che a totale sorpresa è un cartone straordinario. Ah, poi esce Tron 29 dicembre, a voglia. E scusa, tra poco After, cos'è questo? È Clint Eastwood alle prese col paranormale. Non l'avevamo mai visto fare un film sul paranormale. Skyline, tutti i filmoni proprio. Tra poco, tra l'altro, andrò a vedere il grandissimo ritorno di Massimo Boldi al Cinepanettone. Sembrava avesse mollato, invece torna. Ah, torna con un film che esce prima di Natale, come al solito, per non andare in concorrenza con il Cinepanettone, diciamo quello ufficiale, quello di Christian De Sica e di De Laurentiis. Si chiama A Natale mi sposo, c'è La Canalis, c'è Salemme e c'è Enzo Salvi, diciamo i nomi principali. E niente, girerà intorno al matrimonio, come dice il titolo e come spesso capita a questi film di Boldi da solo. Ricordiamolo che a mio modesto parere i film di Boldi da solo sono 100 volte peggio dei film di Conte Sica. No, è una cosa, cioè io ho capito che Boldi dei due era quello che veramente affossava, perché poi quando lui se n'è andato, i Cinepanettoni, pur rimanendo Cinepanettoni, De Sicchiani e tutto quanto, sono comunque migliorati, cioè non erano infinitamente peggio. Il Cinepanettone di Natale come si chiamerà? Vacanze in? Sudafrica. L'onda del mondiale. Hanno cavalcato l'onda lunga del mondiale. C'è tutto il promo che loro fanno quel balletto di Shakira, della canzone Waka Waka. Oh, terribile. Non c'è Belen, però. Li ho visti tutti quanti. Questo non vado. Questo non andrai. No. È troppo. A me il calcio non piace. Neanche la partecipazione di Belen ti convincerà. Belen è stata l'altra settimana, 3 giorni a casa mia. Ne la fai più. Guarda, proprio non ne posso più. Vabbè, le cronache di Narnia invece? Le cronache di Narnia no, esce tra un il po' 17, ancora. Il 17, vale, no, pensavo che tu l'avessi niente. No, ancora no, ancora. Ma no. Il filmone di Natale quale sarà secondo te? Tron? Ah, beh, Tron esce un poco dopo, no? Esce il 29 dicembre, esce un po' dopo. Sì, vabbè, no, dico in quel periodo lì. Sì, sicuramente ci sarà Tron che monopolizzerà un sacco le sale subito dopo Natale. Ma è 3D? Ma, sì. Ma prima di Natale le sale saranno monopolizzate. Anzitutto da Natale in Sudafrica, ovviamente, che esce il 17 dicembre. E poi esce Aldo Giovanni e Giacomo, cioè la banda dei Babbi Natale, si chiama. Il nuovo film di era qualche anno non facevano. Esatto, film. Era qualche anno non li facevano. Nello stesso giorno escono Natale in Sudafrica, la banda dei Babbi Natale, quindi Aldo Giovanni e Giacomo, le cronache di Narnia, che c'è, e Megamind, che sarà il cartone di Natale, che secondo me, vi ho detto, è un cartone bellissimo, molto molto bello. Escono tutti lo stesso giorno, infatti si faranno una guerra come ci sarà poche. Il delirio al cinema proprio. Esatto, quel giorno. Esatto. Il 20 esce? Il 17. Tutto 17. Questo avviene il 17. Ci sarà un delirio fuori dalla grazia di Dio. Invece, settimana prossima, esce il film della Disney. La Disney ha ricominciato a fare i film a matita, disegnati in 2D come i vecchi. L'anno scorso ha fatto La Principessa e il Ranocchio. Quest'anno fa Rapunzel. Anche se poi esce in Italia col nome inglese, cioè Rapunzel. Rapunzel, però è Rapunzel, e esce appunto il 26 novembre, quindi con grande anticipo, non vogliono sovrapporsi alle corazzatone di Natale. Devo dire un'altra cosa. Ma anche negli Stati Uniti accade questo? I cartoni di Natale? No, che escono tutti questi film a Natale? Sì, cioè, sai, gli Stati Uniti sono fatti così. Hanno alcune date molto forti, cioè c'è il Natale, ma loro hanno anche il Thanksgiving, che è un altro momento forte. Hanno il Memorial Day, che è un altro momento in cui si va molto al cinema. E ne hanno ancora un altro che non riesco a ricordarmi. Beh, hanno Halloween per gli horror, escono tutti agli Halloween. Ed un altro più avanti che non mi ricordo, vabbè, insomma, di queste cose lì. E poi hanno l'estate, che è il momento fortissimo per loro. L'estate è tipo il nostro Natale per loro. Escono tutte le cose, tra luglio e fine agosto escono tutte le cose grosse. Ma penso. Sì, diametralmente opposto a noi. Vabbè, perché loro non vanno in vacanza. No, hanno altri tipi di vacanze completamente diverse. Non ce l'hanno il mare in America. Quindi che vanno in vacanza a fare? Dove vanno? Ma. Invece no, devo dare una notizia, in molti lo sapranno, ma qui si danno notizie anche per commentare. Sì. Da un paio di settimane diciamo che è possibile noleggiare film in rete legalmente su piattaforme grosse, cioè noleggiare film. Non ho capito nulla. Allora ricomincio da capo, sì, che giustamente sì, devo fare un primo. E in Italia era possibile noleggiare film online, cioè noleggiare un file. Io pago poco, mi prendo un file e me lo vedo. Diciamo come quando quei pochi che scaricano illegalmente scaricano solamente a pagamento. Però costava molto, i film erano pochi, le piattaforme erano strane. È arrivato quello che diciamo nel mondo lo fa in maniera migliore, cioè Apple con iTunes. Su iTunes potete comprare la musica, chi lo fa, ma da 2 settimane in Italia potete anche comprare e noleggiare film. Comprare, il prezzo devo dire è un po' altino, cioè siamo sui 9-10 euro che per un film che è un file è troppo. Però il noleggio costa poco, costa 2 euro, è una cosa fattibile. Poi si cancella. Esatto, avete un mese per vederlo, ma dal momento in cui cominciate la visione, cioè cliccate e cominciate, avete 48 ore. Quindi tu puoi stoppare e ricominciare il giorno dopo, hai 48 ore per vederlo, che è più o meno come quando affitti un DVD, più o meno la cosa è quella. Come vi dicevo, lo fate attraverso l'iTunes Store, la qualità è buona, non è ancora alta definizione, dovrebbe arrivare, perché in America c'è, quindi arriverà piano piano anche da noi. Il catalogo per il momento è molto limitato, perché ha appena aperto, quindi c'è poca roba. Ci sta Avatar, ci sta, io ho visto School of Rock, insomma ci sono dei film, ma non ancora le bombone, perché stanno mettendo in piedi, cioè anche se vi ricordate iTunes per la musica all'inizio non cominciò con tutto, anzi i Beatles sono arrivati l'altro ieri, finalmente, per cui insomma, però è una cosa buona, io l'ho provato, ho fatto un test per il pubblico di Radio Rock, mi sono immolato a vedere film, ed è assolutamente buono, buonissimo. C'è una cosa, non ci sono film italiani. Zero, totalmente. Vabbè, iTunes è americano. Lo so, però distribuisce film doppiati in italiano, quindi le edizioni italiane dei film americani. Allora io mi sono chiesto, ma scusate, ma com'è possibile che non ci sono film italiani? Questo apre in Italia, è un business grosso, bisogna cominciare, bisogna fare. Sono andato da. Perché io faccio le cose, infatti. Fatte bene. Prima sono andato dal numero uno della Warner, perché la Warner è l'unica grande casa americana che non c'è al momento su iTunes italiano. Gli ho chiesto, allora ha aperto iTunes e voi non ci siete, perché? Lui mi ha detto, sono decisioni che non prendiamo qua in Italia, le decidono in America. E ha chiuso la partita. Poi sono andato dagli italiani, e principalmente da Riccardo Tozzi, che è il numero uno di Cattleya, che è una casa di produzione molto grossa e che è anche il presidente dell'ANICA, che è l'associazione di categoria, quindi diciamo parla per la categoria. Quando vado da gente seria, bravo. E lui mi ha quasi sbroccato, ma non a me, in generale. Parla via. Esatto. Quasi sbroccato. La musica, insomma, era veramente inviperito. Chiaramente non con me, che sono un reporter, e poi la stampa. Grande giocatore. Esatto. Anzi, vedevo che aveva un po' la soggezione di parlare con me. Certo. Perché si mi ha detto: no, è certo che non ci. È certo che non ci siamo su iTunes. I distributori hanno diritti e non fanno niente. E faccio: ma come i distributori hanno i diritti? Certo, i diritti per l'on demand, che è la trasmissione via internet, sì, li tengono i distributori e ci tengono con le mani legate. Allora gli dico: ma scusa, adesso tu sei il numero uno dell'associazione di categoria. Ma diciamo che io adesso parlo al numero uno di Cattleya, cioè anche nel tuo ruolo di presidente esatto, della i tuoi film della tua casa di produzione, chi ce l'ha? Cioè, non riesci a metterli? No, ce l'hanno Medusa, Rai Cinema, Warner, e non li mettono. Io gli dico: metteteli. E loro mi dicono: ah sì, poi adesso facciamo, non ti preoccupare. Sembri in Nanni Moretti. Sì, infatti sì, sembravo. Mi sono accorto a metà che lo sembravo. Insomma, avvelenato. Ma lo credo, perché insomma anche io, visto che è avvelenato e sono un reporter sagace, ha infilato il coltello nella gamba. E ho fatto: beh, ma insomma fate qualcosa. Con questo tono scioperate, supponente, proprio il tono supponente, insomma fate qualcosa. E lui andandosene, alzando anche il dito indice: è certo che lo faremo. bravo. Si fa, ti sono piaciuto, eh? sì. A Baskets ti fai dare il sito per il noleggio online. È iTunes, vai sul sito della Apple, ti scarichi il software iTunes e poi da lì puoi noleggiare tranquillamente, in maniera perfettamente legale, con tutto il beneplacito dello Stato italiano. Bene. Poi qui c'è qualcuno, vedo che c'è qualcuno che propone sempre per la prova Jackass, che dovrò sostenere, nudo su un tavolo disteso con 10 persone che ti strappano i peli del pube. E c'è un problema, questa è buona, l'avrei fatta, ma c'è un problema. Non hai il pube? A parte quello, mi rischio che poi non lo posso mandare online, che YouTube me lo censura, perché capito? Non si può fare. Peccato, perché era buona, lo stavo per fare, però. Fatti dare le schicchere sotto il naso. Vabbè, ma non è demenziale, ammettiamolo, cioè deve essere anche divertente. Ce n'era una, un ragazzo mi aveva proposto una cosa geniale, ma non la posso fare perché è troppo in grande stile. Mi aveva detto: fai così, ti mascheri con un grande costume da orso e ti fai spruzzare lo spray urticante negli occhi, poi urlando e dimenando ti esci in strada vestito da orso urlando davanti a tutti. Che poteva funzionare, però cioè non ho il costume, poi non lo posso fare, chi lo mi riprende in strada? Noi. Sì, ma poi chi mi riprende in strada? Trovo io le persone con le camere. Ma no, deve essere una cosa che si fa al chiuso, perché loro staranno in una stanza per le interviste, insomma, non è una cosa che non si può fare. Il calcio ai testicoli va bene, è quello più votato fino a questo momento. Lo tengo in considerazione, non è stato ancora provato. No, essendo quello più votato, tu devi dar retta agli ascoltatori. Non sono tenuto, però facciamo così, tra i più votati, io sceglierò. Questa è censura. Io sceglierò tra i più votati, in un alveo dei più votati. Oh, poi mi chiedono un'altra cosa, mi chiedono com'è l'ultimo film di Martone, che è un'ottima domanda, perché io, questi sono i bravi ascoltatori, perché io avevo detto alla settimana scorsa, l'ultimo film di Martone non l'ho visto, perché non l'ho visto in proiezione stampa, ma andrò al cinema a vederlo. E sono... Questo è la più bella! Questo è un grande! La fai! È questa! Ti fai fare la cenetta alle sopracciglia. Allora facciamo questa, la Davide, faccio. Grande Davide, sei un grande. Questa la faccio se riusciamo a trovargli anche un che di demenziale che l'accompagni. Cioè loro non solo fanno cose che si fanno male, ma le fanno sempre in contesti che ti fanno idiota. Ridere. Esatto. Allora, tu immagina Vasquez senza sopracciglia. No, questa è la più. Bravo Davide, bravissimo. Vabbè. E dicevo, l'ultimo di Martone, che si chiama Noi credevamo, ed è il film sul Risorgimento. Io avevo detto che non l'avevo visto in proiezione stampa, ma che sarei andato a vederlo al cinema per il pubblico di Radio Rock. Sono andato a vederlo al cinema per il pubblico di Radio Rock, me lo sono visto, e devo dire che è un film che non mi ha esaltato. Allora, siccome è un film che pensato per la TV, ma che va al cinema, vi dico subito che non sembra una fiction. Sembra una fiction solo nei primi 50 minuti, ma poi per il resto no, è un film vero. È un film in cui ci sta per dire, c'è Tony Servillo che fa Mazzini, c'è Locascio, ci stanno Francesca Einaudi, un sacco di attori italiani. Racconta il risorgimento dal punto di vista dei perdenti, cioè di quelli che all'interno dei rivoluzionari volevano fare una rivoluzione che, diciamo, vista con gli occhi moderni, con gli occhi con cui li guarda il regista, sembra quasi una rivoluzione Che Guevariana, capito? Quel tipo, li guarda così lui, con quel tipo di ottica, quindi molto insurrezionalista, molto ideale, la rivoluzione dal basso e così, ed è un po' il racconto attraverso delle storie particolari di come poi questi ideali siano falliti, per cui la rivoluzione si è andata in porto perché si è fatta l'Italia, ma si è fatta con i potenti, con la corruzione, e sembra intuire, insomma, è facile intuire che l'idea alla base del film è che sia i guai odierni vengono da lì, da un'unità d'Italia fatta male. A me comunque questo film non è piaciuto parecchio, devo dire, mi è sembrato comunque tutto quanto fatto in maniera un po' alla Carlona, un po' facilone, insomma, non niente di che. Vabbè, Inception, la trottola, esatto. Cade o no? Stavo prendendo tempo per non rispondere a questa domanda. Allora, chiedono appunto, alla fine di Inception, la trottola cade o meno? Per quei due che non hanno visto Inception, dico brevemente di che sta parlando. Io sta non parlando... l'ho veduto. Ah, non l'hai veduto, va bene. Sta parlando no, del fatto... si vede... Ah, al cinema si vedeva male? Sì, ti hanno rimborsato il biglietto, sono sicuro. Certo. Stiamo parlando del finale del film. Chiaramente non vi svelo il finale, non c'è bisogno di cambiare canale, stazione anzi. Stiamo parlando di un momento in cui alla fine del film c'è questa trottola che gira, il film finisce prima che la trottola cada o non cada, e per quelli che non hanno visto il film, se dovesse cadere o non dovesse cadere, cambia l'intero senso del film. Ora, è evidente che se il regista non te lo fa vedere appositamente, è una cosa che tu non devi sapere. E vuol dire che il senso del film sta altrove. Cioè, nel caso specifico, che cada o non cada, che quella che viveva il protagonista sia un'illusione in meno, non è importante. Ormai gli è entrata in testa quell'idea e non se ne libererà più. Cioè, il concetto è più forte. Il fatto che tu sei insicuro se quello è reale o irreale, com'è lo spettatore, perché non sa se è vero o falso, è l'intero senso del film. Non renderti ma più conto di quale realtà vivi. Ma alla fine no. Si vede. La trottola gira e poi diventa nero, prima che tu possa capire se si ferma o meno. Perché appunto neanche tu come protagonista devi saperlo se è quella realtà o meno. Ho capito. Vabbè. Quindi hai svelato la fine del film? No, perché poi dovete capire perché è importante la trottola, capito? Solo alla fine capirete perché la trottola è fondamentale. Ah. Stai a parlare con professionisti. Che cavolo. Se vuoi un pizzico di demenzialità, dopo la ceretta un po' di sale sopra. Allora è geniale, sono mosso a commozione da questa genialità. Poi c'è qualcuno che mi dice, anche su PS3 si noleggiano i film e anche in HD, bravissimo. E io infatti, che sono un giornalista seria, ho noleggiato il medesimo film sull'iTunes Store e sulla PS3 lo stesso, per vedere le differenze. Allora, è vero, sono in HD, si vedono meglio e costano solo un euro di più, perché paghi l'HD, quindi ho pagato 3 euro quello sulla PS3, ma ha un problema. Il film sulla PS3 lo puoi vedere, rimane là dentro, cioè lo puoi vedere solamente sul tuo televisore e sulla PlayStation 3. Quello dell'iTunes Store, se hai un iPad te lo vedi sull'iPad, se hai un iPhone te lo vedi sull'iPhone, lo puoi portare in giro, puoi farci un DVD, puoi fare una serie di cose, quindi ha quel vantaggio secondo me l'iTunes Store più della PlayStation 3, che te rimane là dentro qua a fare. Allora, è vero che da quello che ho letto il Dylan Dog ha poco a che vedere con il fumetto, la figura di Groucho non c'è perché gli eredi non hanno dato l'assenso, l'utilizzo del nome del nome non riesco a capire perché, visto che il fumetto è distribuito anche negli States. L'Hobbit so che è assolutamente in lavorazione, solamente che ha avuto una serie di vicissitudini in Italia e di problemi produttivi che si parla di 2012 per la prima parte del film, dovrebbe essere diviso in due. Per cui hai voglia. Invece 007? 007, beh, abbiamo letto l'altra volta le notizie, anche lì non hai voglia. Non ce ne sono altre, perché bisogna no, che ogni volta... Sì, lo so, infatti dobbiamo fare gli aggiornamenti ogni volta, però non ce ne sono di rilievo. Non sai niente. Qui ne consigliano una buona, ma è stata già fatta. Non posso farne una già fatta. Che originalità sarebbe? Ah, l'hanno fatta quella del rauto nel sedere? Che Stivo l'ha fatta, è inutile. Stivo, come dice l'ascoltatore, è il più matto, è vero, è proprio il più matto. È quello del tatuaggio sbagliato sulla schiena. Aspetta, fa un po' vedere. mi digiti per favore Steve O. Steve O. Steve O. Che squadra. Veramente, lo abbiamo capito, ne siamo lieti. Vasquez, io non saprei proprio cos'altro chiederti. È venuto il momento della televisione? Il sospirato momento? Esatto, vai. Allora, cosa c'è di rilevante in televisione in questa settimana entrante? Devo dire che è una settimana bella ricca, eh? Allora, per tutti i gusti. Innanzitutto, il primo che vi consiglio è un film molto bello di un regista molto noto, ma il film non è molto conosciuto, ed è un peccato. Domenica, alle 23 su MTV, fanno Clockers, che è un film di Spike Lee. Con Harvey Keitel, tra l'altro, film, chiaramente essendo un film di Spike Lee, Harlem, spacciatori, tutta questa roba qua, bellissimo. È una storia di uno spacciatore che cerca di smettere, e queste storie dei gangster che vogliono uscire dal giro sono sempre bellissime. E è uno dei film più raffinati di Spike Lee, più delicati. Poi c'è un Harvey Keitel che fa il poliziotto straordinario. Vi ripeto, domenica, ore 23 su MTV, e si chiama Clockers. Sempre. Ah, beh, eccolo, quello delle sopracciglia l'hanno fatto, eh. Peccato, lo volevo fare. No, però bissiamo. No. Sì, l'ha fatto lui, devi emulare. No, ma che figura ci faccio con loro che devi emulare. Mi presento con una cosa già fatta. Dai, insomma, è un po' che io ho un'immagine da difendere. Sempre domenica su Rai 2, ma alle 2:35 del mattino, fanno Crank, che è uno dei film bellissimo, d'azione più incredibili. Bellissimo. Ma tu poi hai visto il primo? Perché tu hai visto il secondo? Sì. Bellissimi tutti e due. Esatto. È uno dei film d'azione più. È uscito anche il terzo, se non sbaglio. No, il terzo ancora no. Sì. Ma io questa cosa non. Adesso controllo, mi ma. Pare non di sì, mi pare non di mi sì. risulta assolutamente. Comunque, no, Crank e Crank 2. Sono solamente quei due esistono. Uno dei film d'azione più esilaranti, ma anche divertenti, nel senso del divertimento, non solo perché si ride, ma perché ci si diverte a vedere una cosa movimentata che ci sia, no? Che racconta la storia di un uomo che per rimanere in vita, gli iniettano un veleno, per rimanere in vita deve generare adrenalina nel suo corpo, quindi si deve tenere sempre a forte componente emotiva e contemporaneamente andare a beccare quelli che gli hanno messo il veleno nel corpo. Spettacolare. È un film incredibile. Domenica. Credete se non credete a lui che è difficile che non creda a me. Che è difficilissimo. Credete a me che è ancora più difficile, però guardatevelo perché è veramente veramente pensa divertente. Che lo fanno domenica su Rai 2 alle 2:35 del mattino. Vabbè. Mattino quello tra domenica e lunedì. Ah, tra domenica e lunedì. Sì. Che faccio domenica sera? Cena, cosa, andiamo fuori, ma sì. Poi torni a casa alle 2:35 tra. E te lo spari alla grande. Invece sempre domenica, che è una giornata ricca, alle 22:40 su MGM, però, quindi il canale di Sky, che solitamente, cioè raramente consiglio i canali di Sky perché non tutti ce l'hanno, però quando c'è qualcosa di veramente imperdibile non posso non consigliarlo. Fanno appunto su MGM alle 22:40 Piombo Rovente, che è un film di Alexander McKendrick, un regista non notissimo, con Burt Lancaster e il recentemente scomparso Tony Curtis. Stupendo, è un film su dei giornalisti che cercano di manipolare l'informazione, che detto così non è il massimo, ma in realtà è un film di carisma, in cui Burt Lancaster ha un carisma fantastico, un film con dei dialoghi scritti benissimo, ed è proprio quello che ci immaginiamo quando ci immaginiamo i bei film di una volta. Ecco, questa è una cosa di cui non abbiamo mai parlato e di cui dovevamo parlare. Recensioni di film porno. rimasto senza. No, c'è un motivo. C'è un motivo precisissimo per cui non le posso fare. Perché l'industria del porno è cambiata negli anni e non vanno più al cinema. Per cui io, che sono un recensore di film cinematografici, poi non viene in sala. Ormai è solo. Neanche più, una volta c'era il mercato del video, adesso è solo un mercato online, roba così amatoriale. Insomma, io ho una certa statura, non posso fare roba amatoriale. Scusa. Ecco. Sono uno stupido. Tuttavia, quelle. Ma ti perdono. Tuttavia, le cose più vicine al porno che fanno al cinema, io solitamente quelle recensisco quando è. Comunque, ho capito che questo Jacob è uno che beve birra. Ma ne beve a frotte proprio. A rotta di collo. L'hai capito dall'occhio vitreo? No, dalla casa invasa da lattine di birra. A casa invasa. Alla casa non l'avevo mai vista. E di eggs. E di hamburger surgelati. Tutta cosa. Se vive. Boh. Dicevo. È uno preconfezionato. Precotto. È uno precotto. Allora, qui mi dicono: perché farsi la ceretta quando puoi farteli bruciare? Che ci avevo pensato. Però ho un problema nel fatto di farseli bruciare. Che siccome è una cosa ad alto rischio, poi non me lo faranno mai fare. Cioè, l'ufficio stampa mi dirà: eh no, e che rischiamo? Che loro ti fanno male sul serio e poi tu ci fai causa. E quindi non me lo faranno mai fare. Vabbè, tu gli fai una liberatoria. Bisogna fare una cosa a basso rischio. Alto dolore, ma basso rischio. Vabbè, se era facile, ma la decidevo da solo, no? Ho chiesto aiuto, ho perché capito. È difficile. Hai ragione anche tu, però. Vediamo un po'. La ceretta. Io ti dico la ceretta o il calcio sui testicoli. Fatti sparare sul sedere con il sale grosso. Aspetta che si sciolga. Poi me lo racconti come è demenziale. Dicevo comunque, Piombo Rovente, per chiudere, lo fanno 22:40 su MGM domenica. Film bellissimo. Vediamo se recensisci un porno in diretta. Dici da un film porno. Ma io così, ma io poi non fruisco, non so. Ah, vabbè. Sparare col fucile a gommini però non fa male, cioè. A gommino. No, un po'. Fa abbastanza male, devo dire. Però ti spiego l'idea Jackass, perché c'è uno di questi in cui gli sparano con i gommini, però loro sono talmente assurdi che fanno così. Mettono la vittima, che è uno di loro poi, su uno di quei grossi materassoni ad aria, grossissimi. Un altro, ciccionissimo, si lancia da una gru sull'altro estremo del materassone gonfiabile. Quindi, esatto, il primo schizza in alto. E quando è in alto, tutti gli altri, vestiti da caccia su una barchetta, gli sparano coi pallini. Questa è la genialità jackassiana, cioè il demenziale unito al doloroso. No. Però non ho una gru, non posso fare nemmeno questo. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo domani è sabato, non ci sentiamo. C'è il trailer di Jackass 3D. Eccolo qua, sto vedendo qua. Che fanno nel trailer? C'è quello con i bufali nel trailer. Non lo so. Eccolo quello con i pallini. Grazie a tutti e a tutti, ci sentiamo lunedì se tutto va bene. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola non raccoglie mai sugo. A lunedì, vi lasciamo con Mario Tagliaferrucci. Grazie Vasquez. Prego, un piacere. Salutano. Aspettavo che tu mi citassi. I nostri ascoltatori, no? Ma no, questa Massi, dai, Massi. Ma va là. Me lo posso permettere. Va là. Radio